140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Universal Music, Milano. Un Sanremo andato benissimo, un tour affollato, l'album Andrà tutto bene, che ora è un romanzo, nel quale racconta tutta la sua vita. Nesli. Io lo dicevo anche in tempi non sospetti, che sono il mio primo fan. Io sono davvero un fan di Nesli, quindi ascolto un sacco la mia musica, mi piace ascoltare le cose che faccio, ho un sacco di canzoni mai pubblicate perché devono essere solo mie, quindi sono molto fan. Ed era giusto che questo mantra così positivo e così fortunato per me e anche per tanti altri diventasse qualcosa di più. Come mai hai deciso di svuotare tutti i cassetti? Perché era giusto farlo, perché mi sono reso conto nel percorso che in tanti conoscevano qualcosa di me, ma in maniera sbagliata, o magari tanti avevano un'idea. Volevo che fosse chiaro il mio messaggio, volevo che non ci fosse più una libera interpretazione di quella che è la storia, e perché so che tante cose non le sapevano, non le hanno neanche immaginate. Quindi il mio timore era perché so che da questo libro qualcosa cambierà, nel bene o nel male, il giudizio nei miei confronti, l'idea che chi aveva e l'idea di chi pensava di avere un'idea cambierà, perché è la vera storia. E lascio cadere le mie difese, quello che non si vede, leva il respiro, leva, perché sorriderò. Perché sorriderò, quello che non si vede, leva il respiro, leva, perché sorriderò, perché sorriderò. La vera storia, la tua vera storia che passa attraverso la provincia, il rapporto con la città, le droghe, qualsiasi tipo di guaio, perché a un certo punto diventi una sorta di calamita, per sì. Qualsiasi disavventura è tua. Verissimo, hai detto bene, divento una... ma ha caratterizzato gran parte della mia vita, la calamita e la calamità. E poi leggendolo ci sono veramente... io quando l'ho riletto mi sembrava quasi come a dire... cioè come se fosse un bambino, no? Figlio mio, che cose assurde, l'episodio degli occhi. Quando l'ho riletto e l'ho rivissuto mi sono detto che periodo folle. Però sono sempre stato io, cioè non riesco a non buttarmi nelle fiamme. Io non riesco a farle a metà le cose, non riesco a non bagnarmi totalmente. Ero quello che, ancora prima di chiedersi le cose, le aveva già fatte. Perché ha un valore enorme. Secondo me la curiosità di conoscere te stesso e di provare, perché provare poi alimentava le mie sensazioni, provare le cose alimentava tutta la mia sfera emotiva, che è quella che mi ha fatto diventare capace di scrivere certe cose. La tua carriera, l'hai detto serenamente, è sempre stata accompagnata dal pregiudizio, dal fatto che hai un fratello famoso, ingombrante, e lo sai che molti leggeranno nelle tue pagine cercando le tracce di tuo fratello. Questa cosa che impressione e che sensazione ti dà? Guarda, è giusto, sono contento che tu mi faccia questa domanda, perché molti potrebbero chiedermi: ma perché non c'è? E io invece la risposta che do loro è perché voi lo avete immesso. Questa è la verità di come è stato. Non c'è niente di più di quello e niente di meno. Tutto quello che si è raccontato l'hanno deciso di aggiungere gli altri. Quando mi dicono: ma come mai la scelta che i rapporti vadano in questo modo, se è stato così tanto presente nella tua vita? Ah, perché in realtà se leggi la storia non è stato così tanto presente, è stato un momento, ma anche una delle parentesi più piccole, però, se devo essere onesto. Quindi il fatto che gli altri abbiano attribuito questo non era reale ed era un peso per me, perché non era vero e quindi era difficile da spiegare, però non era così. E il legame, l'aver condiviso tanto, qui dentro capisci che è una piccola parte. Se invece vuoi vedere solo quella è tutto. E allora, ma perché? Ma queste scelte folli. Se invece guardi, cioè se la vedi da solo quel punto di vista è vero, è una follia. Se la vedi nell'insieme è un tassello. Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani, se non come vorrai. Dammi tutto adesso, tutto quello che hai. Dammi l'odore addosso, se no mi perderai. Della tua pelle in fiamme, dammi l'amore in faccia. E morsi sulla carne, la vita che si slaccia. E si slaccia. Quanto ci danno torto o ragione gli altri non è la misura del valore del nostro pensiero. Questa secondo me è una frase politica e mi piace l'idea che le parole, più che abbiano una forza poetica ed emozionale, abbiano una forza politica. Parola vuol dire proprio questo. Anzi, io mi oppongo, cioè più mi dite che ho torto e o ho ragione, più la mia idea sarà diversa da quella che volete. Perché devo creare una cosa diversa, perché sennò è un processo che morirà in quella direzione e voglio cambiarlo, solo anche per il gusto di provare a cambiarlo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Nesli. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.